A volte scendo in strada per vedere gente correre, correre, correre. Vederli così sembrano anime dannate, stravolte dal correre, correre. Osservo le masse fluire, persone che non sanno gioire, senza sogni come i fiori appassire. Non sarò mai uno di voi, ma come fanno a non capire tutto lo stress in questo correre, correre. Una vita condannata a maltrattare i sogni può solo servire a correre, correre. Osservo le masse fluire, persone che non sanno gioire, senza sogni come i fiori appassire. Non sarò mai uno di voi. Vedo la rabbia incisa nello sguardo, tutto il dolore in questo correre, correre. Cara saggezza, dove sei andata a finire? Intrappolata in questo correre, correre. Persone che non sanno gioire, senza sogni come i fiori appassire. Non sarò mai uno di voi, non sarò mai. Non sarò.